Benvenuti ad un nuovo appuntamento con Indie Radio, il programma di informazione indipendente curato dal collettivo di gestione di Calabria Indie Media. Indie Radio la potete ascoltare solo su Transizione di Fase ogni venerdì alle ore 21 ed in replica sabato alle ore 12. Se invece avete perduto uno dei nostri vecchi numeri, vi consiglio di visitare il sito calabriaindimedia.org, dove troverete tutte le nostre vecchie registrazioni. In questo numero ci occuperemo della solidarietà internazionale al movimento italiano a seguito del 15 ottobre. Sempre in merito al 15 ottobre vediamo come la repressione si abbatte sul movimento. In particolare a Bologna si sono registrate delle perquisizioni a tappeto da parte delle forze dell'ordine durante una iniziativa. Invece sentiremo anche un'intervista ad alcuni giovani indignati che a Cosenza sono in presidio permanente. Parleremo poi di ambiente, infatti il 29 di ottobre è stata indetta dalla rete di difesa del territorio Franco Nisticò una manifestazione per dire basta al carbone a saline ioniche. E infine ci occuperemo di un autentico scandalo della scuola italiana, ossia l'ora di religione, o meglio il catechismo a scuola pubblica. Continuate ad ascoltare Indie Radio, continuate ad ascoltare le trasmissioni di Transizione di Fase. Parliamo ora di repressione, in particolare vogliamo ricordarvi quello che è accaduto a Bologna il 22 ottobre scorso. Vi diamo dunque lettura di un comunicato comparso su Indie Media Lombardia. Leggiamo dunque che intorno alle 14 del 22 ottobre un dispiegamento delle forze dell'ordine composto da una trentina di Digos con due camionette, celeri e artificieri a seguito sono entrati all'interno della casa che ospitava l'incontro, ovvero una tre giorni chiamata Sentieri di Guerra, tre giorni sulla liberazione totale. Dunque è stata effettuata all'interno di questa casa privata una perquisizione a tappeto legittimata dal 41 TULPS, ossia ricerca di armi, esplosivi e droga, nella quale possono essere effettuate qualsiasi tipo di identificazione e ricerca senza mandato. Dunque le forze dell'ordine hanno provveduto ad eseguire perquisizioni dell'abitazione privata e delle automobili, oltre ai soliti posti di blocco e alle identificazioni. Addirittura, leggiamo ancora in questa nota, una ragazza fermata nelle vicinanze è stata condotta in un agriturismo adiacente per procedere ad una perquisizione totale all'interno di una stanza. cosa non accaduta solamente per il rifiuto della proprietaria. Il comunicato dunque continua facendo riferimento ai fatti di Roma e probabilmente, infatti, secondo gli autori di questa nota, la vicenda di Bologna è da porsi in relazione con il 15 ottobre a Roma, quindi questo è il futuro di repressione e di controllo sociale che ci aspetta e occorre, innanzi a questa prospettiva, cercare di ragionare per far fronte comune. E quindi questo volantino, questo comunicato è stato pubblicato proprio con l'intento non solo di condividere questo triste episodio, ma anche con la speranza di poter avviare un'analisi di più ampio respiro per organizzarsi e trovare dunque le giuste risposte rispetto a questo clima dunque di repressione che continua ad avanzare in tutta Italia. Parlando sempre di repressione, leggiamo un comunicato di solidarietà con il movimento italiano ad opera di Upmeeting, una rete internazionale. Questo comunicato è stato pubblicato sul New Guardian di Media Italia. Diamone ora lettura. Di fronte alle minacce di arresti preventivi ed indiscriminati e alla forte ondata repressiva a cui è sottoposto parte del movimento italiano, vogliamo esprimere mediante questo comunicato la nostra massima vicinanza e solidarietà. Organizzatori di guerriglia urbana, provocatori professionisti, eccetera, Sono alcune delle definizioni qualificative che i media mainstream, i partiti politici e i corpi di polizia stanno utilizzando per criminalizzare quelle forze antagoniste che hanno partecipato attivamente alla costruzione collettiva del 15 ottobre a livello internazionale. Dimostrazione di tutto questo è la partecipazione al meeting del 15 settembre a Barcellona degli Stati Generali della Precarietà, rete italiana che include diversi collettivi e centri sociali come San Precario e Acrobat. In questo incontro internazionale, il dibattito fra le molteplici reti, movimenti e realtà sociali è stato fondamentale per la costruzione di una moltitudinaria ed eterogenea giornata di mobilitazione globale contro la politica di tagli e austerity che incide sui pilastri delle diverse forme di welfare e sui diritti sociali dei paesi europei. La rete degli Stati Generali della Precarietà ha contribuito attivamente alla costruzione pubblica e collettiva di un ambito di dibattito comune e condiviso per molte e molte dovute denunciatarie la crisi del potere e iniziare la costruzione di concrete alternative contro la precarietà delle condizioni materiali di vita. È per tutto questo che evitiamo qualsiasi attribuzione di responsabilità e di una organizzazione preventiva rispetto ad un'esplosiva situazione che si è verificata durante la manifestazione, così come rifiutiamo il linciaggio mediatico e repressivo in atto contro attivisti e movimenti per la ricerca di capri espiatori da parte del governo italiano. Ribadiamo la nostra vicinanza e solidarietà alle reti sociali che sono ingiustamente criminalizzate e chiediamo la scarcerazione immediata degli attivisti arrestati. La rete che ha firmato questo comunicato è quella internazionale Upmeeting. Siamo qui in piazza 11 settembre a Cosenza, dove un gruppo di giovani, gli indignati cosentini, sono qui in un sit-in permanente che ormai si protrae da numerosi giorni. Ascoltiamo la loro voce e soprattutto cerchiamo di capire le motivazioni che spingono dei ragazzi giovani di 18-20 anni a essere qui nella piazza a Cosenza. I motivi principali, secondo me, come secondo noi, della crisi sono che la maggior parte del denaro non proviene dalla produzione, quindi non proviene dalla voce fabbrica, ma proviene dalle cosiddette azioni. Questo è un mondo di precariati, di precari, perché? Perché non essendoci lavoro in fabbrica, perché la produzione non viene fatta più in fabbrica, c'è meno lavoro, dove si sono le azioni, attraverso l'equipamento di voto, investimenti ancora peggio perché lo Stato finisce, e credite comunque il conto poi non pagherai. La tiene sempre più sotto controllo e assoggettata alle sue volontà. Come dicevamo, a Cosenza ci sono questi giovani ragazzi, finalmente facce nuove, dobbiamo dirlo, non solo e sempre le solite persone, finalmente dei ragazzi giovani che cominciano a dire davvero mo basta delle nostre vite, decidiamo noi magari. Vediamo per quale motivo proprio a Cosenza dobbiamo scendere in piazza. Abbiamo voglia di scendere in piazza, di prendersi la strada, perché abbiamo voglia di allontanarci ormai dai palazzi che vengono tutti, che da una c'è più informazione, da cui ormai le strutture sono allontanate, non ci ascoltano, perché rimaniamo appunto tutti nei palazzi. Abbiamo voglia di prendersi la strada, per avvicinarci alla gente, perché la gente scende lontana ormai dallo Stato. Lo Stato non è più vicino ai rappresentanti, sono i cittadini. La gente come sta rispondendo? La gente si nota molto indifferenza, sono indifferenti, sono proprio quelli indifferenti, forse di cui parlava anche Gramsci un po' di anni fa. Sono indifferenti e questo ci fa male perché i problemi sono un po', riguardano un po' tutti, i precari, gli universitari, gli studenti che oggi non sono più con noi. Spero che avvicineranno al nostro movimento, alla voglia di mettersi la strada, come di dirci che ormai sono un po' alla mercé di gente che non ha più interessi nel popolo e nel governare questo Stato per i benedetti. Ok, quindi continuerete a essere qui in piazza in questi giorni, come pensate di strutturarvi? Stiamo organizzando un circuito costante, permanente, come qui dalle 2 alle 8. Abbiamo intenzione di continuare ad ostante fino a quando non avremo risposta alle istituzioni. Speriamo di coinvolgere più persone possibili, organizzare seminari e di dare più informazione possibile alla gente e di sensibilizzarla ai problemi che coinvolgono ormai il mondo, non solo l'Italia. E dunque qui da piazza 11 settembre per ora è tutto, continueremo a tenervi informati su quanto sta accadendo a Cosenza. Come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on so quello che voglio io da solo. Dal tipo di ingegneria alla magia, leggiamo il noi da quelli ci devo hai tutti sa che riguarda la volta ora si delizione per il sistema per il sistema che si tenga che teoricamente è la resoluzione che si tenga che si tenga che si tenga che si tenga che si tenga che si tenga che si tenga che si tenga che si tenga che si tenga che si tenga che si tenga che si tenga che si tenga per trascorrere con mio figlio, che mai conoscerà le varie religioni, un'ora di studio alternativo. Potrei anche scegliere di far uscire mio figlio dalla scuola, se riesco ad organizzarmi, ma nel 1999 l'articolo 3 dell'ordinanza ministeriale numero 128 ha sostenuto che lo studio della religione cattolica o dell'ora alternativa possono concorrere alla formazione del credito scolastico e quindi il punteggio di ammissione all'esame di Stato. Un bellissimo rigazzo, aggiungiamo noi. I ricorsi presentati sono stati ignorati per anni, mentre l'Ufficio Catechistico Nazionale, alle dirette dipendenze dei vescovi, iniziò una vera e propria schedatura per conoscere le motivazioni della mancata frequenza degli alunni. Nel 2005, con il decreto di riforma delle scuole superiori, l'insegnamento della religione cattolica fu inserito nel monte ore obbligatorio annuale, obbligando chi volesse raggiungere la promozione a frequentare i corsi di studio alternativi, non attivi in tutte le scuole. Nel 2007 e nel 2009 il Lazio ha accolto i ricorsi presentati, ma in entrambi i casi la Conferenza Episcopale Italiana ha chiesto al governo di impugnare la sentenza, cambiando la situazione. Inoltre, la collocazione dell'ora di insegnamento religione cattolica all'interno delle lezioni, come preteso dalla Conferenza Episcopale Italiana. Tutto questo riduce la mia possibilità di far uscire, come per legge, il mio figlio dalla scuola, obbligandolo a un'ora di studio alternativo, peraltro non sempre attiva nelle scuole, e quindi spesso alla frequentazione dell'ora di insegnamento della religione cattolica. Nel 2003 gli insegnanti di religione sono entrati di ruolo e così, nel caso perdessero la facoltà per insegnare religione, sarebbero assegnati dallo Stato ad un'altra cattedra. Per continuare, nel dicembre 2009, grazie allo SNADIR, Sindacato Nazionale Autonomo degli Insegnanti di Religione, sono stati concessi solo agli insegnanti di religione scatti stipendiali. Certamente lavorano molto, dobbiamo dirlo, no? E quindi è giusto che abbiano questi aumenti, aggiungiamo. Come? Secondo una legge del 1980 creata quando questi insegnanti erano precari a vita. Non era prevista, cioè, la loro stabilizzazione, rendendo necessario aggiornare il loro stipendio, ma come sovrascritto nel 2005 fu istituito il concorso e nel 2003 l'immissione in ruolo. Per i precari della scuola non è previsto nessun aumento di stipendio in relazione all'anzianità di servizio, per quelli di religione sì, incremento del 2,5% ogni due anni. Infine, l'ora di religione è ancora chiamata religione al singolare, così come accade con la geografia, l'economia, ma nell'era della comunicazione che importanza possono avere in fondo le basilari regole dell'organizzazione del discorso? Non resta che concludere con una dichiarazione del sopracitato SNADIR. Lo SNADIR è aperto inoltre a tutti coloro che vogliono condividere il progetto di una scuola fondata sui valori della convivenza civile, del confronto interculturale, del dialogo interreligioso. Ebbene, certamente questi dati ci fanno riflettere, ci fanno capire come effettivamente la scuola italiana, se da un lato perde numerose possibilità di aggiornamento, perde soprattutto la possibilità di avere insegnanti giovani, soprattutto ora che si vuole alzare l'età di pensionamento a 67 anni e si vogliono condannare persone che un tempo magari erano giovani, ora sono un po' meno giovani ma continuano sempre a fare gli insegnanti precari, e lo saranno a vita. Invece dall'altro lato continuano ad avere degli insegnanti di religione cattolica che vanno a fare la loro bella ora di catechismo, che vanno a minacciare i ragazzi dicendo magari loro di non usare, che ne so, il contraccettivo, di non avere rapporti sessuali, di avere una brava condotta, di non andare in luoghi pericolosi perché magari ci sono i comunisti o ci sono i drogati o ci sono le persone cattive, e di andare magari in chiesa dove è tutto bello. Magari dimenticano però che ci sono i preti pedofili e le monache, che non sono persone sicuramente molto raccomandabili più delle volte. Ebbene, tutte queste persone che seguono dei corsi di studio di tipo confessionale e non frequentano scuole pubbliche e imparano dunque qualche pregherina, un po' di teologia qua e là, ebbene, queste persone hanno diritto ad essere riconosciute come insegnanti di primo livello e hanno dunque diritto ad avere soldi in più, ora sono stabilizzati e quindi vanno a pregare nelle loro belle aulette, e i nostri figli, i nostri alunni, i nostri fratelli, le nostre sorelle sono costretti praticamente a seguire la loro schifezza di religione. Ebbene, lo diciamo, occorre che anche qui la scuola venga modificata, e sarebbe auspicabile l'abolizione totale ed assoluta di ogni riferimento alle religioni all'interno delle scuole pubbliche laiche, un po' come avviene in Francia, ma se noi abitiamo in Italia e non siamo in Francia, un motivo ci sarà. Continuiamo così, continuiamo ad avere i nostri bei crocefissi legati, stampati, incollati con la Vinavil nelle nostre aule, e continuiamo ad avere questi ignoranti, stupidi, imbecilli, docenti di religione che rubano uno stipendio e costringono le persone ad essere indottrinate. Bella cosa, sì. Questa è la nostra scuola, la scuola italiana, quella cioè che premia gli inutili e che va a tutto il vantaggio delle persone colte e preparate, che hanno lavorato e studiato una vita per poter fare gli insegnanti, e che ora invece si vedono tutte le porte chiuse in tasca. Complimenti, complimenti a tutti, complimenti a tutti i governi di destra e di sinistra che non sono riusciti a fare questo male, il male dell'insegnamento della religione cattolica all'interno delle scuole pubbliche italiane. Yeah. Anche per questa sera Indie Radio finisce qui. Vi ricordiamo la replica sabato alle ore 12 e soprattutto vi ricordiamo anche la possibilità di ascoltare le vecchie trasmissioni di Indie Radio che sono presenti sul nostro sito, cioè su calabriindimedia.org, nell'area selezionati. Buon ascolto con le trasmissioni di Transizione di Fase. Annibale, Annibale, grande generale nero. Annibale, Annibale, grande generale nero. Con una sfera di elefanti attraversasti le Alpi e ne uscisti tutto intero. A quei tempi gli europei non riuscivano a passarne neanche a piedi. Ma tu, Annibale, Annibale, grande generale nero, tu le passasti con un mare di elefanti. Lo sapete quanto sono grandi e grossi e lenti gli elefanti? Lo sapete quanto sono grandi e grossi e lenti gli elefanti? Eppure Annibale gli fece attraversare le Alpi con 90.000 uomini africani. Annibale sconfisse i romani, restò in Italia da padrone per 15 o 20 anni. Ecco perché molti italiani hanno la pelle scura, ecco perché molti italiani hanno i capelli scuri, ecco perché molti italiani hanno gli occhi scuri, ecco perché molti italiani hanno la pelle scura. Un po' del sangue di Annibale è rimasto a tutti quanti nelle vene. Un po' del sangue di Annibale è rimasto a tutti quanti nelle vene. Nessuno può dirmi stai dicendo una menzogna, no, nessuno può dirmi stai dicendo una menzogna. Se conosci la tua storia sai da dove viene il colore del sangue che ti scorre nelle vene. Se conosci la tua storia sai da dove viene il colore del sangue che ti scorre nelle vene. Durante la guerra pochi afroamericani riempirono l'Europa di bambini neri. Cosa credete potessero mai fare in 20 anni di dominio militare un'armata di africani in Italia meridionale? Un'armata di africani in Italia meridionale. Ecco perché. Ecco perché. Ecco perché. Noi siamo figli di Annibale, noi siamo tutti quanti figli di Annibale. Capelli neri, figli di Annibale, la pelle scura, figli di Annibale. Con gli occhi neri, figli di Annibale, meridionali, figli di Annibale. Sangue mediterraneo, figli di Annibale, sangue mediterraneo, figli di Annibale. Sangue di Africa, figli di Annibale. Sangue di Africa, figli di Annibale. Sangue di Africa, figli di Annibale. Sangue di Africa, Africa, Africa, Africa, Africa, Africa, Africa, Africa, Africa, Africa, Africa, Africa, Africa, Africa, Africa, Africa, Africa, Africa, Africa, Africa, Africa, Africa, Africa, Africa, Africa, Africa, Africa, Africa, Africa, Africa, Africa, Africa, Africa.